so se si sente ancora. Capo, no, no, si sente. Uranio, quindi non lo sai mettere il processore. Non lo so se ce ne sia con il processore in questo apparecchio, non lo so, sto guardando ma non lo so se ce n'è, non lo so. Qui un apparecchiettino del cavolo, questo qua, non si crede che sia questa cosa. Non c'ha mille funzioni. Ok, niente, no, non lo so. Comunque a me si è abbassato di radio e cambia la batteria col microfono, perché prima arrivavi meglio. Quando sei entrato arrivavi benissimo, adesso ti si è abbassato di radio. Evidentemente la batteria, quella lì è scarica, deve essere sostituita. Sì, ormai c'era una prova, adesso sono a quattro dita. No, sta facendo a te, no, Gianni, sta facendo a Marco. Ah, lui stavo già spaventato, perché questo batteria non ne ha, è un microfono normale. È l'ecco dell'apparecchio questo qui, ma il microfono è normale. Sì, ero lontano dal mic, Francesco. Scompiglia tutto, è benissimo così, tu non toccare niente, stavo dicendo a Marco io di cambiare la batteria. Marco, tira fuori i soldi e compra la batteria nuova al microfono, che non costa 100 euro. Io ti dico la verità, Marco, io con le batterie ricaricabili non le ho mai potute vedere, perché durava l'altra la Santo Stefano. Ma sai così già, quando erano nuove, la loro durata ce l'avevano, solo che ce le ho da anni, forse 15 anni. No, 15 no, fai 10, però anche non usandole, poi si sciabideggiano in queste al nickel cadmio. E quindi pazienza, meglio la pila. Quanto dura, va bene. Conviene con la dura, ce guarda, io con le dura ce le... Ma durano i microfoni. Io c'ho dura, ce le i microfoni, e durano veramente tanto. Ma anni, Baromi, no. Non mesi, anni. Un anno e mezzo, due anni, poi le cambio io, anche se sono ancora buone le cambio. Sì, intanto basta controllare col tester la tensione anche. Come arriva già a 9, sotto il 9, da cambiare. Io sono di parte, io uso Energizer, non so perché, simpatizzo più per quella marca. Energizer? No, io prendo sempre Duracell, secondo me è l'unica, la Duracell che fa batterie come si deve. Beh, anche Energizer già, credo che siano allo stesso livello. Le Ultra Plus sono quelle, addirittura ci sono quelle a litio. Sia stilo, forse anche da 9 a litio, però quelle per lavori pesanti più, per roba che assorbe un bel, per un microfono che assorbe poche decine di milliampere non c'è bisogno di quelle a litio. E vabbè, comunque in ogni caso quando le compri vedi tu cosa prendere, però anche con le Duracell sono molto buone, perché mi hanno durato anni. Sì, ma infatti se non trovo l'una prendo l'altra, quello che trovo prendo, l'importante è che siano batterie a lunga durata, non quelle che compra mamma da me, di quelle di cartone, quelle di marche. Qui esce l'acido e ti rovina tutto l'apparecchio. Ma infatti quelle lì non durano nulla. Quando io vado al supermercato, c'è da Italy, ci sono quelle batterie, ma non durano niente, manco quelle da 1,5 per gli orologi che c'ho in casa, che metto, quindi che appendi al muro, dai. E durano pochissimo. Sì, è vero, non... E poi quando si scaricano lì esce l'acido là, come si chiama? E certe volte trovo piccole orologi, sì, roba così, certo non la metto in radio, in PMR, eccetera, e trovo i contatti bruciati dall'acido. Ma ti ho detto, non ne comprare queste batterie, o tantomeno quelle cinesi sono proprio in cartone, quelle stilo. Se tu le pieghi con le dita, guarda, basta appena appena di forza, un minimo di forza, e si piegano. Figurati. I cinesi le trovano tutte. Avanti. Non ha niente. Costano due soldi, ma in effetti dopo non servono a niente, a parte che non alimentano manco, diciamo, principale pure. Secondo, si caricano subito e ci hai buttato soldi, anche se costano due lire, hai buttato via i soldi. Invece la batteria buona, anche se costa, diciamo, 3,80, 3,70, 3,80, 4 euro per fare il costo, non lo so, 3,80 per fare il costo, la 9 volt della Duracell. Ma almeno so che assorbe, diciamo, c'è il suo assorbimento, quindi dove più e poi, diciamo, lo fanno manco, quando scarica non ti fanno manco colare, diciamo, il liquido, capito? Invece quello lì, come caro il pieno di tensione, subito c'è il liquido perché non serve a niente. Ok. Allora, te cambio, riprendi. Sì, infatti, anche quello è il bello, che sono le Duracell e le Energizer, sono abbastanza ancora, non perdono l'acido di elettrico, come si chiama adesso? Ma non di elettrico, infatti io la metto nei telecomandi, roba a lunga durata, prima di cambiarle, anzi durano molto più della Duracell. Io adesso, vista l'ora, stacco, devo fare il caffè, eccetera eccetera, ok? Oggi poca gente, nemmeno Antonio Bombo l'ho sentito, nulla, boh. Riprendi già. Riprendi da lavoro. Vabbè Marco, comunque riesci, dai, sentiamo le prossime. Avanti. Curà. Serata, brucia. Ok, adesso che chiudo perché ci sono già un bel po' qua e niente, dai, passo in correttivo. Nulla, mi pare che era sul 20, stavo chiamando a Gian Maria, però è durato poco, mi pare qualche secondo è sparito subito. Non lo so, va bene, dai, siamo tornati a te Gianni, ci sentiamo, diciamo, carcina del tutto. Vabbè che era anche un bel po' senza fare attività qua, quindi non sapevo a cui c'era. Ok. Perfetto, poi ciao Marco, buon proseguimento di serata ancora e ci sentiamo, dai, salutoni cordiali e buon proseguimento, ciao, per me è corretti, ciao. Ciao Orario, ciao, ci sentiamo, anche a te Marco, ci sentiamo, avanti se ci... Chi è avanti? Ho sentito che sei dal vero, ma non riesco a capire, c'è molto qua il rem, è qua. La radio è bassissima, capito? Il segnale magari può andare, ma la radio proprio bassa. Dai, ti saluto perché non ti ascolto, non riesco a ascoltare più la serata. Sì, Radio 1 era. Radio 1 qua, più che altro per il pelame che c'è sotto anche. Propagation, Corremation. Anche io ce l'ho Marco. E non lo sento di radio però, lo sento, capito chi sia. Adesso riprovo il gas, vediamo. Provo un po', dai. Sta scaldando la macchina del caffè. Uff, che giornata però. Giornata brutta oggi. Non c'è nulla. Vabbè dai, provo a attaccarlo. E vediamo un po' se sono più fortunato. Che strano bip che c'ha. Guarda adesso. 3 bip. E adesso? 1. È strano di tonalità però, non so definirlo. Quello del Galaxy è così. No, mi interessa se sto facendo bene di radio. C'hai un eco però, tutto troppo eco già. Non... Allora, lo devo regolare, guarda. Timbrica un po'. Non saprei. Cos'è la radio macchiata? No, la sento. Sembri in controfase, sembri, non so cosa, come dirtelo. Fai un passaggio più lungo. Ora guarda, 1, 2, 3. Allora, ecco, di solito l'ho regolato così, questo chiaro, ma... Guarda adesso. No, già stai uscendo, diciamo, tonalità un po' più bassa dell'altro. Sì, il bip è strano, ecco. Vabbè. È che ho tolto tutto, c'ho questo parlantino di Kikia. Più ce ne sono due, c'è quello del Galaxy e quello del microfono, adesso non so se si è acceso quello del microfono. Sì, sembra il pomponio, PDP, 2B, 3B in tutto. Ecco, così adesso ci dovrebbe essere solo quello del Galaxy, confermi? Eia, sì, c'è un tono strano. Non... è strano. Sì, ma la radio voglio sapere come sta uscendo, gracchiante oppure liquida? No, no, gracchiante no, è che c'è questo eco che fa wow, che la confonde un po'. Capito? Non mi sembra di sentire quell'effetto lì, quella che pur, comunque ricordati non era gracchiante, era come una lieve saturazione, lieve ma lieve. Guarda adesso Marco, se va bene senza eco. Beh, io la preferisco senza eco. Allora la guarda. Per far dispetto. No, perché la preferisco io così? Non mi appassare quella. Vabbè, comunque senza eco esce una modulazione amplificata. Faccio una cosa, mi ascolti in cucina, fischia. Ma fischia così? Eh sì. Perché? Non ho mai fischiato. Sì, così fischia, boh. Se c'è una cataratta mi fischia. C'è una specie di... Sì, alle soglie di un innesco anche, appena appena. Io credo di averlo sentito prima che io entrassi, 10 minuti prima. Un leggero innesco, come se fosse a filo di innesco, dai. Guarda, vabbè, adesso la sofa la sto usando come la uso sempre, con l'amplificazione giusta, per appena passato il massimo del coso della microfonia. Guarda, vabbè. Già, è come leggermente bassa di toni, cupa, però c'è questo in agguato, questa specie di innesco leggero. Io non so se tu riesca a percepirlo con l'altro apparecchio, magari in cuffie. No, non posso percarlo, se no non mescola. Adesso facciamo una cosa, cambio microfono. Ehi, chi altro c'è sul 10 per un controllo? Io, che siete tutti all'ascolto, sarete in 20 minimo. Marco, questo qua è un super size, guarda come va. Premi la portante, muta. No, c'è una specie di... Una specie di innesco a... Così. E poi una tonalità come una specie di cappa un po' cupa. Capito? Una cappa microfonica cupa, un po'... Boh. Ho capito, se partite il modulatore qua. No, ma se parte il modulatore non esci di radio. Ah, io ho detto, chi c'è sul 10 per un altro controllo, per un consulto? Siete tutti all'ascolto, tanto io. Ma mi basta il culo, non c'è problema. Se non va bene, va bene, dai, la fa usare adesso. Qua. È normale che se fa questo non va bene. Lo fa a momenti, io non ho capito quale sia la costante, adesso non lo fa. Però è come se stessi modulando, non so se riesco a farti il paragone, guarda, sto mettendo la mano sul mic per farti questo effetto che io però non mi sento e non so se sia simile. Sì, ho capito. Guarda adesso, perché adesso avevo evitato male, magari è quello lì. Ah, è Antonio. Come lo senti a Gianni? Bene, lo sento a Gianni, bene. Oh, sto usando l'antenna piccola, Fatto una piccola sto usando. Eia. Se non vedi, no. Sto usando l'antenna piccolina, non sto usando l'antenna grande. Certo. Qual è la piccolina? Loro c'ho il cobro. Ma va. E dove sei? A casa sono. E già vivi bene tu. 9:10, vabbè, se sei a casa, siamo vicini a te. Andare. No, la modulazione mi interessa, se senti il rumore sottofondo di questo microfono qua, perché l'altro mi sta dando problemi. Ne ho due di antenna, adesso siccome quella là non l'ho attaccata. Perché? Quindi ho detto, vabbè, uso questa, uso, vediamo chi c'è. Ok, mi è quasi pronta a mangiare, io scendo giù a mangiare adesso. Ok, continuate. Ciao, buonanotte, ci sentiamo là. Ti ho fatto una domanda, ma non mi hai risposto. Dimmi Gianni. Ho detto, se senti rumori sottofondo, fischi, fiaschi, col microfono. Oh, tranquillo, non trudieggia. Vabbè, ok. Marco, adesso come va? È come prima già. Senti, non lo so, la tonalità è ambigua. È come fosse bassa, mi te l'ho detto, come penso una cosa del genere, non so quanto renda. Lo sento già, dai come farò. Chi è Marino? E ciao Marco, questo è esatto. Cioè questo bip pure la modulazione non è tua, non mi piace nulla. Buonasera, c'è qualche problema all'apparizio, ma poco sta cambiare microfono, c'è qualche problema all'apparizio perché ho cambiato il microfono, si fa la stessa cosa. Maschiando, la nuova struttura è tipo quella di ieri che è entrato anche Claudio ieri, era bellissima, limpida, proprio ottima, la tua voce. Oggi non mi piace. Ieri l'ho spento l'apparato, l'ho riacceso e oggi ho fatto questo problema. Io che colpa ne ho? Io l'ho usato, non l'ho toccato, non è niente, l'ho spento e di nuovo l'ho acceso e ho fatto di nuovo lo stesso problema. Vabbè, accendo un altro apparecchio, se ci state, accendo un altro apparecchio. Dove sono? Le 8:30, se no non me ne sto andando, se no andiamo a portare il carico, è troppo tardi, dai. Ci sentiamo ragazzi, buona serata. Ah, già, beh, sentito, dai, Marco, vai. Ciao Gianni, sì, anche il bip è strano, è come alterato, mi. Non è il bip del... il solito bip che noi conosciamo di quell'apparecchio lì, è una specie di tu, ha una tonalità all'onfia, a me, boh. È qualcosa che, e poi il bip passa a te per il modulatore, quello che è, qualcosina lì c'è che non è il solito Gianni, in poche parole, beh, hai detto bene tu. Invece ieri con il super, Super Siderick, mi pare era stupendo, se era quell'apparato, Oh, Marino, mi senti? Certo, ci sento, tu, ottimo, va benissimo. Ho l'antenna piccola, dai. Continuate, io scendo a mangiare. Ciao, ciao. Quando arrivo a tappa? Questo apparecchio non ti posso segnare perché quel ciao svizzero è un po' falso. Sono nel Galaxy, ma come segnale è zero questo, dai, non te lo posso dare. Comunque la modulazione però è ottima, tu vai tranquillo. Vabbè, uno giù di comodo Maggio, ce l'ho sul tetto. Ok, dai, continuate che vado a mangiare. Ok, ciao, ci sentiamo, ciao a tutti. Anzi Marco, esatto. Quello di ieri era ottimo, oggi non è già, è un segno un po' strano, non lo so, vabbè. Bene, Marco, tutto a posto, sì? Tutto uguale, tutti i giorni uguali. Poi queste giornate uggiose un po' non mi invogliano uscire, dai. Adesso vediamo appena passa questa settimana di pioggia, che poi non è che piove, è piovigina, ma secondo me non ha riempito proprio niente i bacini. Poi è una pioggia sporca, ti sporca la macchina, ti sporca i mezzi e basta. Esatto, io stamattina alle 4:30 ero già fuori c'è il servizio, cioè, è affitta, ma l'umidità ti ammazzava proprio. Oggi sono uscito quasi alle 3, figurati, dalle 4:30 di stamattina. Ho pescato un leggero un po' di acqua, ma vabbè, noi già siamo coperti, dunque acqua, umidità già non prendiamo all'interno, già siamo coperti, ma sporca il mezzo e basta, tutto qua. Avanti. E questo come va, Marino? Qua ti capisco un pochino, ma c'è sempre qualcosa che non mi piace. Cosa? Questo è migliore, ma c'è qualcosa che non mi piace lo stesso, è troppo grosso. Avanti Marco, come lo senti? Vai Gianni. Prova, guarda Marco, 1, 2, 3, prova. Ecco, questa la preferisco già molto di più rispetto a quella di prima. Naturalmente poi con questi microfoni vari che tu stavi usando, a me piaceva la modulazione che tu avevi mesi fa o anni fa col Galaxy, o il Saturn, o Galaxy Saturn, quello che è. Come esce Franco, mi piaceva. Poi ho cominciato a usare vari microfoni, modificarli e tutto, però le modulazioni hanno sempre delle timbriche che non sono cristalline, effetto presenza, capito? Per il resto già va bene questa va bene, l'altra era come cupastra un po' ambigua. Questa meglio di prima già è. Sì, molto meglio. Questo qui è il microfono che mi ha dato tu, gli ho cambiato il filo eccetera eccetera, lo sto usando sul Ruiz. Ma solitamente mi dicono che va bene questa qua, boh, non capisco. Scatta Gianni, è quello che vuoi sei già. Scatta! Scatta gatta. E beh già, ciao Marino. Qui, allora che mi hai tratto. No, questa è migliore già, migliore quella di prima già, dai, diciamo. Mi piaceva l'altro giorno è proprio bella limpida, bella forte, proprio ottima. Avanti Luca! Ehi, allora, sono appena arrivato, li prendi già. Ciao Luca, ciao, ben sentito. Dai, adesso l'ho alzata, vediamo un po' se va meglio. L'avevo abbassata. perché tutti mi hanno fatto una fasciazza, adesso non è tocco più, lascio così, guarda se va bene Marino adesso. Allora, per me è ottima così, così va bene. Ripeto, non è come con l'altro giorno, comunque va benissimo, va bene lo stesso. Allora ti manco. Sì, sì, già, non ti fare paranoie, questa va meglio. L'altra era strana, è come, te l'ho detto, come una specie di coso cupo, non normale comunque, dai. Vabbè, dai, sono apparecchi vecchi. Se l'ha prodotto, lascia solo in uso, buonanotte, si è finito il gasoletto. Già, ti volevo dire. Posso via io, cosa impari? Gianni, ma tu non hai più la configurazione originale che usavi anni fa, con il Saturn, o Galaxy che sia, o Galaxy Saturn? No, non ce l'ho. Comunque io Marco nel Galaxy ho lasciato sempre lo stesso microfono, i microfoni che ho modificato li ho modificati per gli altri apparecchi, quell'altra base che c'è della Intec, non è stato, non ho modificato nulla, ho lasciato sempre esclusivamente il coso, come si chiama, l'Echo Master Plus. Forse l'apparecchio che sta cambiando piano piano già, perché tu una volta eri eccellente di modulazione col Saturn, eri tipo Franco Binario, la modulazione è splendida, effetto presenza. Lo so, ma gli apparecchi sono vecchi questi, che magari si è svelato qualche componente, adesso sto dando le piste, ma no, non so a chi portarlo, qua non c'è nessuno che li sappia aggiustare. Vabbè, già c'è che li sa aggiustare, però tempo permettendo. Allora non disturbare a nessuno, va. Magari c'è altre cose da fare, non voglio disturbare. Io questo apparecchio qua l'ho avuto tanti anni, adesso. Ciao Luca. Pazienza. La Suzuki, da giocarsi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non è che abbia problemi gli apparecchi. Che credo io che mi stanno chiamando per la cena. Ciao già, ciao anche a Marco, ciao a Luca se mi stai ascoltando. Saluto gli ascoltatori per le quelli, Marco riprendi, ciao, a domani. Sì, Mari, che apparecchio stai usando? Oggi meno, il Galax. C'è la voce un po' citofonica, che microfono hai? Non dire le dinamiche che c'è qua manuale, vabbè peccato. Ce l'ho a due adesso. Cattagatto. Invece l'amplificato che va meglio. Ok, dai, ci sentiamo, vuoi la carica quando la fai. Ok, già ti sveglio dopo una mattina alle 3:30, ti va bene? Capito. Guarda il buongiorno alle 3:30, bene ti va Gianni, sì. No, non ti ho capito, Mario. Ti mando il buongiorno alle 3:30, domani mattina. Cosa ho detto Marco? Non lo riesco a capire. Vabbè, ho detto che ti mando il buongiorno domani mattina alle 3:30. Ah, io vabbè. Dai. Non c'è problema. Se sei dormito, dai. Ok, ciao, domani, ciao. Ciao, troppo alto, sì. Avanti, Alghero. Avanti. Non esce di radio, Alghero. Faccio break, Alghero, io stavo durando. Alghero, abbiamo sentito la chiamata, ma poi portante mutta. Gianni, lo vede il segnale? Non sta uscendo di radio. È vero. Vabbè, dai, io vi saluto che vado per ordinarmi le pizze. Dai, ci sentiamo. Cava. Ciao a tutti, buona serata. Ciao Gianni, ci sentiamo, buona serata, buona pizzata, buona passeggiata col cane. Ciao, io mi sono arrivato adesso, là. Sono sistemato delle cose, mi ha bombolino, sto aspettando, vabbè Marco. Ciao Luca, era qua e è andato a mangiare, un attimo fa, capace che stia ascoltando, sì. Mi devo ricordare che questo apparecchio c'ha un breve ritardo di 200 millisecondi quando premi la portante, quindi non devo parlare sul, devo premere e poi iniziare a parlare. E te hai parlato in due con Gianni, vabbè, si è passato tutto, poi sei più vicino, va bene. E là, lo sento poco fa, tanto. Purtroppo io posso entrare solo quest'ora, di mattina, vabbè, di mattina già sono a casa, ma fino a una certa ora poi vado via. E niente, purtroppo giuro, staccato, non va bene così. Un altro baracchino, eccomi qua. Ma già mangiato hai? Ehi, a me, mi ha fatto una pizza e me l'ho mangiata. Cazzo, gente, due minuti fa sei andato via, te la sei spazzolata la pizza. Ma cosa ci vuole mangiare una pizza? Ma tu non hai visto me, io ci metto un quarto d'ora a mangiare una pizza tonda. Tu sei lento, Marco, lascia per... Adesso io lo so mangiare, veramente, un bocco, cioè non dico in un boccone, è molto veloce. anche io mangio in fretta. Beh, Luca già rusame. Cazzo, ma se lo vedi spaventi? Cazzo, un coccodrillo. No, io già sono lungo, mi. E Gianni già se ne ricorda quando eravamo lì in pizzeria. Io ero l'ultimo a finire. Io il primo. Io già mangio metà. Ma perché ti attacco là per il frigatore in antenna, perché si pompa. Che esce le cuppie? Proviamo. Quanti watt tiene la... la bazooka? No, 300 watt già in terra. Vabbè, dai, ci sentiamo, buona serata a tutti. Ciao Gianni, ciao. Bianco anche per me, che vado a caffeinizzarmi. Riprendi Luca. Ciao già, alla prossima. Ciao, ciao. Scappa, non so come un orologio di comodo gioco. Io ti sento, ci sono problemi. Ma tu attaccato sei? Qua c'è sa? Sì, sono agganciato. Perché non l'avevo scappa. Di segnale come sono, basso. Santiago poco più di 9. Vabbè. Luca, attaccato sega, io a chi passa da Bombolino, io parla anche tu. Allo basso, Bombolino, di che passo io, già lo passi. No, beh, ormai arrivi fuori. Allo basso. A voglia che non passi. A voglia. Sì, ma chi è che passa? Io o lui? Logicamente tu sei più vicino a me. No, non crede, guarda che Luca è in alto, mi. Ma cosa si intende? Alto, ma è più in alto anche. E poi c'è una signora antenna, non c'ha mica un'antenna di plastica come la mia. È finini da Marco, non di cazzate, dai. È logico che passi tu qua. Non è che passi, no, passi di brutto passi. In linea d'aria però tu sei aperto per me. Ma anche lui passa qua, ti passa anche a te, Antonio, lui è più vicino di te. No, vabbè, lui, conta che Antonio oggi è col... come lo chiama? Manico di covolo, il manico di scoppa. Manico di covolo, Mi si metto 3 watt. Non c'è storia. Io sono nudo e crudo e scappellato. A proposito, se avete le registrazioni di Paoletto, tenetevele bene perché il sito non è più raggiungibile. Certo che io ho il CD. Copialo, fanne copie. Copia i file anche su computer, anche se il sito poi è chiuso del tutto, adesso non so, bisognerebbe contattare l'amministratore lì. Se vuoi te la faccio la copia. Anche, no, perché io ricordo di aver scaricato ogni singolo file. Ebbene, non li trovo più. Ho controllato l'hard disk esterno e non ho trovato più. L'altro hard disk. Non ci sono i file MP3. Boh. Forse li ho cancellati per sbaglio dal cellulare. Abbi ragione, non ti preoccupare. Ci tengo a quello, Guarda a vedere. Adesso sono con la Ringo. Io parlo anche io, sono vabbè, 3 watt. 3 watt. 3 watt. No, no, se abbiamo 3 watt, no, non passa né uno né l'altro. Ah, vero, sì. Beh, io Gigi, scalda. Che è Gigi? Il software che sta scaldando. Vabbè, dai. Sì, no, volevo fare oggi dei piccoli di ex in FM, ma c'erano solo arabi. L'unica parola che sì, capivo era Allah. Allah. Li volevo anche sfottere e dire Allah, chi te l'ha fatto fa? Solo che quelli sono vendicativi, quelli sono bombaroli e ti tagliano la gola mia appena gli entri in mano. E no, la gola è piscita. Poi no, io dico arabi, ma musulmani in genere, probabilmente nordafricani erano i più cattivi, i algerini, ma tunisini, gli algerini di più però. Certo, da Bricoman. Mi sono comprato l'amore stringente. Bello quello, ne volevo prendere un po', vabbè. Aspetta. Scusate, dai, mi chiamano, vedevo il pretendono. Riprendete, Bianco, per me, anzi, corretti direttamente. Ciao a tutti. Riprendi, Anto. Kappa, caffè si stava scaldando, cazzo. Se vuoi fare quelle prove, poi rientro. Ehi, prova adesso a vedere. Allo basso. Allo basso, allo basso, allo basso, allo basso. 5, 6, 7. Allora, tu ti sento, però sente anche lui, si sente. Ma passa qualcuno di... Vai, vai a tutta birra. ti passa, Marco, là. Non bene bene, ma ti passa. Ia. Beh, ovvio no. Caspita, due punti S in più. Comunque siamo, credo, in una specie di triangolo, come distanza, Se vuoi vedere, sì. Va bene, la posizione è quella. Sì, infatti. Ia, che si va di gabuccia per migliori occhi. Lucchi me ne escano. Ti volevo mandare, Marco, una cosa. Te la scrivo su... Non basta. Ti mando su WhatsApp, là. Ti mando una cosa. Eia, non passi, si sente sotto, piccolina la voce, allo basso, ma non puoi passare, Luca è forte qua. Aia, vai, bastardo, sali. Guarda che sono quasi al massimo, Oia, le guerre a colpi di fatto a un chilometro di distanza, o un chilometro e più che quattro con te. Stavo scherzando. No, già divertente comunque fare queste prove comparative, tanto per passare il tempo, intanto cosa dobbiamo fare? Oggi è una giornata di chicchia, non ho combinato niente, non sono uscito. A Roma che cazzo è un po' curante, dai. Ehi, facciamo asciugare l'antenna. No, comunque ho staccato, non voglio niente, è il colmo, non ci sta a usare. Vabbè, era tanto per far funzionare la roba. No, ma poi lontananza rende un bene. C'è un sacco di resa in lontananza. Sì, in lontananza sì. Ha voglia. Vediamo se c'è l'amico di Alghero, che era entrato per un controllo che non usciva di radio. Nada. Attenzione Alghero, scopi Sassari. Non c'è più. Luca? Sì, aspetta un attimo che domando una cosa a mano. Gaffa, vai. Non c'è problema. C'è altri due passaggi con questo e poi c'è tutto. No. E scintille, no. Attenzione, ti chiudi ex, con Piazza Sardegna, cappa. Positivo, costeranno 12 euro, 13 euro. calma, ma spero che sia più là possibile, se no io riacco. Ma se lo fate bene, ti duro una pizza quello lì, capito? Calma, calma. Sono gioiello quello lì, va bene. E già me sono capizzato, via. Cazzo, una volta te la tratta da sopra, di su Cristo mio, fra. Quello è modificato, capito? E non so, già. Capito, quello è modificato. Quello ha modificato una persona che ha cambiato anche un tipo di valvole, che dà più valvole, capito? Lo so, lo so. Tutto ritorno. Ma però faceva la freccia, ci scendeva tutta giù, giù, giù, giù. Eh beh sì, eh. Parli, se ne va oltre 100, 100 oltre 120. Normale, io te ne darei di più. Vabbè, io te lo ricerco, e quando parlavo andava oltre 120. Cappa. Ma comunque va bene, ti ascolto bene, qua si apre uno scala, capito? Io sto usando il 48 adesso, non so come sto arrivando. A punto scala, sì. Cappa di positivo, quindi già va bene. Oh, io poi fai noi, catta. Oh, basta, basta. Ma proprio cazzo mi bacio, le mette a me. Prova, devo fare, mi senti? Miella, senti questa piccola modulazione dalla chitta di Sassa di cambio. Anche sono più vicino a Franco, proprio quella di Bussudì, cazzo, è dietro la chiesa, siamo più vicino, dai, tu sei più distante. Tutto il raggio è dentro, ascolto guarda i gear, dai, gamers. Non so quanti, con quanti watt stai uscendo, fra. Allora, questo qua sta uscendo. Ora. 20 watt di modulati. Ehi, ehi. Scappa. Vabbè, dai, comunque già poppa il tuo amplificatore al tuo, La matta te ne scende. Aspetta, faccio sentire il mio, a vedere, Luca. E lo sei inculato, dice. Ma chi a me? E lo sei inculato, vai. E ho mandato in infatti. Sicuramente in lontananza mi sentono un bel forte. Attento, Lucariello, ascolti questa piccola modulazione, cambio. Ammazza di Nevaria, sei sul DB qua. Senti qua la voce, cappa. Sento Antonio, mi ascolti, cambio. Ah, ma che ti ascolto, sei sul DB qua, troppo parecchio. Lucariello, allora, frate. E a voi, a forte chiasso. Forte chiasso, frate. Tutto sotto controllo qua, la parte mia, capra. Ora. Luca. Attento Lucariello, ascolti questa piccola modulazione, cambio. Va bene Lucariello, no? Un bella saturazione si sente. Sono quasi 180 adesso, adesso è il minimo. Adesso la basso, sono contro. Faccio tutto il tempo del visore, no, che faccio anche un capo. Vabbè, Luca, tutto a posto? Com'è? Positivo, frate, dal colore che gli hanno chiamato, frate. Luca, oggi lo stiamo bombardando, pullarino. Adesso l'ho abbassato. Qui sto scendo con... 10 modulati 20. Luca, lo stiamo bombardando, frate. Io sto scendo sempre questa antenna di gomma vera, frate. Se la voglio togliere l'antenna, ma mica è brutta. Però funziona bene. Questo po' che fai, ragazzi, brutto. Sembra un'antenna, un parafulmine, ragazzi. Appunto, però un'antenna che rende bene funziona bene. Ma io non pensavo che andava bene quell'antenna. E qui stazionario non ha nulla, eh. Caffa, io non l'avrei mai tolta sul tetto. È vero, mi diceva se c'è stazionario. Non hanno nulla, nulla, nulla stazionario, proprio vero. Ho abbassato un po' la potenza, ragazzi, no, è ovvio. Sì, anche io l'ho abbassato. A chi l'ha detto che sta brucando un bel, capito? Già va bene così. Va bene, dai, ciao Luca e ciao anche a Antonio. Ce la riascolta alle prossime, vanno a fare carica batterie. Dai, ce la riascolta alle prossime. Ciao a tutti, anche a quelli che sono in ascolto per me QRT. Ciao. Ciao, Fra. Santa Lucia, ciao. Contro cambiato, ora a te, tutto sotto controllo, guarda. Ciao, ciao. Buonanotte a tutti, ciao, permetti a tutti. Allora, ciao frate, la risentiamo. Luca. Io, e sto controllando i soldi. Cosa, guarda, non te ne usciti. Guarda, ci va, buona mattina, sul drum. A chi c'è caduto? Sono un po'. E se vedete, questa scala del marzo, siamo nel 1 aprile. Boh, cosa la fatica. Tutto questo è questione di soldi, eh. Tutto questo è di soldi. Mi sembri. Tutto a fuoco. Ma che c'è sempre, c'è sempre i controllori. Siamo a rompere le balle. Meglio lascia far perdere. Hola. Hola, hola. Sono troppo alto. Oh, già andava. Adesso cos'è? La multa è 50 euro. Ma prova tu con 34 euro e 50 aveva di un mese. Capito? E così. Vogliamo battuti di denaro. Vogliamo battere. Questa sera di diavolo. Uno di questi giorni, guarda ma li trovo. Tutte le dinà che non ti fumi, te le buoni in chiave. Hai visto quante dinà ce le pagano? Sì, sì, e beh. Certo che sì. Cappa, oia. Oh, ah, grida, mamma mia. Che vagata. Le sigarette devi da carliccia, sono di là lampadi. Queste palle della terra. Non è affatto nulla. È proprio così, sono dimutati tutti. Fatti male, col tempo, non adesso, col tempo, accumuli. Altro che. Io adesso ho qualcosa, ero un fumatore, lo so. Capito tanto. Il mio ultimo pensiero perché il campo sta certo va di male e poi guarda ci credi a tu che mi sentivo sempre sporco cara. Davvero ho tenuto i batti da luce mi sentivo ancora addosso nelle mani guarda forte di me uguarissimi mamma mia l'audio io la sigaretta la odio qua l'audio pucci già lo so già vabbè che tu intendi tutte le fiaghe quando tocca il microfono intendi il fiago di vai sottino va il fiago pure chi c'è il microfono allora sicuramente no fiago di coglioppa la dite andare a pigliare un giubbotto dai osso freddo va oi mamma mia manco i goccoli qua andiamo bene andiamo cappa domani che tu hai la partenza oggi per domani perché? Costantino in partenza? Per andare là per la serata capito? Pure in chi va piago di gugliuppa per carità è tanto macco però e sabato ne ho fatto della corrida ma quante volte le basi in canocchie? E allora io non lo sapevi? Sì, no l'ha detto ma cioè era pagato sì e allora i complimenti perché ha lavorato bene vabbè come il chitarrista, non sono un anno impara sempre di più, è normale se uno suona oggi, e poi suona per qualche mese, per 2, 3, 4, 5 mesi, a dare la mano, capito? È normale, è così. Tu se hai la passione adesso di qualsiasi cosa, e lo fai ogni giorno, certo che impari sempre di più. Se tu guardi il televisore bianco, l'hai visto sul palco, quello è il suo. Ho capito. Non è quello che gli hai aggiustato tu, però è l'altro che hanno messo al circolo. Sì, infatti me ne sono accorto. Sì, ma l'hanno pagato però a lui, sì. ha detto che lo pagava, era nel suo, nella sua cosa, quello il mixerista c'era, cioè lui che metteva la musica. Capito, mi muovi, sa la sera ti guadagnato un sacco di dinare. Io penso buoni buoni 30 mila euro buoni buoni da ricasciare. E un mezzo così, pure il costantino, un 100 euro non vorrei dire. A Costantino. Tutti li ho pagati, che San Luisi, tutti. Ecco, lui è il primo. Adesso dici, beh, vuoi che non ha già pagato tutto quanto lo staff? Per forza, tutto. Che tutti, e per forza, tu. Poi non so gli altri soldi dove vanno a finire. Quello bisogna mandarla a Edo. Chi è vecchio, Già ne avranno speso, perché per pagare una CIA e lì vivono un paese di là. Però c'è stato anche il guadagno. Cazzo, il guadagno. Altro che super guadagno, già c'è. Vabbè, tu levano i soldi dal teatro. Perché il teatro vuoi pagato. Ti hanno i cacciati di non ti preoccupare. Tu pensa che giù si pagava 25 euro. Hai pagato tu il biglietto? No, ho detto giù, primi posti, 25 euro. Cazzo! Invece su, 10. Non vai 25 euro. Saranno i cacciati di altro. Fai allora. E non li cacciato un bel, che era pieno, tu pieno era. Quella di giorno, guarda, 3 poltroncine, forse 4 beauty. Pure caduto, non so quanti posti fa, Non lo so. No, ascolta, mi stavo dicendo Sara di domenica. Domenica? Non domenica, cazzo. Domenica che siamo in TV. Ah, domenica siamo in TV, sul canale 88. Lo so. Non lo so però quando. Le 9 di sera. Allora me lo guarderò. Cappa. Ui. Vabbè, già è stata una cosa bella anche là. Nuove esperienze sono a tu. Prossima volta ci vai tu e canti tu. Magari, chi lo sa, magari vinci, chi lo sa, prova. Proviamo. Perché allora è diverso, cioè fare karaoke è una cosa, cioè 10 persone, 15, fare quello, cioè in teatro, cazzo, con 1000 persone, è diverso a tu, ti simila l'emozione, rischi anche di sbagliare. Lo so, però alla fine devi dire io ce la devo fare. Basta provare. Perché non partecipi tu? Canti un sassareso. No, non si possono fare. Vabbè, io non è che sono bravo, però magari non stono, cerco di... Cioè, lo sai, io ogni volta un paio è buono, ogni volta un bel, due massimo. Fallo 3, ma non di più, No, ne faccio un bel di canzone. No, comunque già io penso che non ti bruciare. Poi dipende dalla gente, chi se ne frega. E se brucia, ragazzi, mi brucia. Che raffa. Comunque dietro è bello lo stesso, è un po' seccante, però già devi aspettare, devi bruciarti. Devi trovare posto, un casino. Sai cos'è? Vista a Roberto Mura, a Peroncino. Cazzo, ha cantato, ha fatto Celentano. Non ha cantato bene, e poi ha preso il secondo posto. Peroncino lo chiamale. Secondo te voglio chiamare Peroncino, che stai 1,10 m. E lo prendo anche in mare che è più basso, Tore. Poi si chiama Roberto, ma tu si chiama Tore, mi davo l'antidozzo. Lo chiamano il Peroncino, il soprannome. E allora? E sicuramente frequenta la cosa, la Baciccia o con altro anch'io. Sì. Lo conosci a Baciccia? A Cristian, cazzo non lo conosco. Tutti lo conoscono, già mi conosce anche a me già, latte dolce. Io non la dico, lo conosce a Cristian. Mio suocero va lì. E vai a vedere. Che ha fatto? Una o due gotture da pigliando. Beh, l'ha fatto bene. Allora, ma no, guarda, una persona più tranquilla che c'è, non è un piballe, cioè, frequenta già da tanti anni lì e non rompe le palle a nessuno. Io presumo che rompiballe ce ne vanno via. No, proprio Eddo non ne va del casino. Lui quando era più giovane faceva le tessere per i circoli. Ho capito. Si comporta bene a tutti. Io conosco tutti a Gavino. Se conoscono tutti sanno che si comporta bene. Sì, no, è tranquillo, non rompe le scatole. Prima andava in Chivi da quanti si chiama il soprannome, che gabbava. Chissà che mi vedi una. Dove c'è la chiesa vecchia di Santa Maria di Pisa? Ah, io ho capito. La Masia, già lo conosci? Sì, già. Poi ha fatto un macco, non mi è andato più. Si è comportato male? Sì. Non si comporti male, musica è quella. Avevo dei problemi con un ghisso. Ma chi tu? Ehi, esci da una scatoccata nella città. Ma ti sta parlando di qualche anno fa, me. Casino. È un po' prepotente, a mullare la sia la data, se non ridi. Beh, non so che ho pagato. E così è. Purtroppo, quei ingredienti che rompi le balle quando mizzi. Va bene fare per un figliolo, lo stesso casino. Il gatto l'ha discuta a terra, io me. Non ho capito, no. Che da voi ne farà duro figliolo a Farrà. A Farrà, se... Cioè, l'ha discuta a terra, rubavo, e voi ne farà due da con gli acciombate. Casino forte è successo il giorno, Casino, sì. Ma ha fatto in un momento che cosa, se no se è stato un altro momento l'avrei aggrebbato, non so come l'avrei picchiato, avrei preso qualche pezzo di tubo, avrei cominciato a tirargliela addosso. È stato ammazzato. A farli male, a lui ero figlioro. E il giorno ce li avevo talmente girate che cazzo, lo volevo. Non riesci un piamme. Sai come dire, che poi ti compromette, passi guai. Sinceramente in quel periodo non me ne fregava niente. Ti affaga. Insomma, di testa non ci va. Ma si spara una bustina. Uia. Dai, domani. A che ora inizia? Alle 8:30. Io verrò verso le 9 qualcosa, perché mi devo preparare, capito? Se arrivo prima è meglio, però... Comunque, ci avete i posti, in 3 siete. Eia, viene anche Ebene? Sì. Eia. Se c'è vicino a Bisie, paga. Parola, è tutta canta strana, eh. Vabbè, fatti bene, mai non fai. Ma che affamacco, ma che piccola. Ma se non le piace bere. È tutta canta bussona, che c'ha bizzina. Che canta e guascia. Vabbè, anzi, non mi fa. Ma cosa era bello, quella c'entra? Ma quella Coca-Cola, bizzi. Vediamo più c'ha leva da Coca-Cola. Vivo un vino, una birra, vivo. Andiamo bene, domani un po' di biglietto me la bevo. Scappa. Però il che non usa non è meglio bio. Scappa, no, ho già la seconda, già un bel di bocci. troppo bisciame il Valde, cioè non so, tante voci sono andato in bagno, no, basta, preferisco bere altra birra, non quella di me, vuoi dare una lana che non me lo fa. Ho capito, la ricnusa fa pisciare con me, è vero, vabbè. Ah, ma non ne picco più. Ma sai perché? Perché mettono l'acqua, usano l'acqua diuretica. Cosa? E là come ti fa pisciare un bemmi, la... aspetta, la... la... ma... cazzo, non ricordo che macchia, che acqua è. E lo so, a me mi manda in... cazzo, mi manda in 11 secondi in bagno. No, basta bere quella roba. Preferisco bermi un Anniker, più... A me non piace. Ho qualche altra birra. Mi piace solo birra, piace molto. Mi piace molto la Bex. Qualche altra cosa, ma tu che c'è chi nuda, troppo bisci, troppo. Secondo me fa anche male ai rene. Cosa tu? Che secondo me fa anche male ai rene, che c'è cosa? Ma è chiusa. Sì, se fa con gli effetti. Lo so. Adesso io stanotte mi devo riposare, perché domani mattina devo partire presto. Ce lo fare un bel carico, ed è un casino, poi mi devo riposare anche per recuperare il sonno per domani. Ok, buonanotte, ciao ciao, buonanotte a tutti gli ascoltoni pure. Ciao a tu, buonanotte, ciao Sara, buonanotte anche a te, ciao. Buonanotte, dai, devo recuperare un po' di sonno, perché sennò è un casino. Ok? Sì, dai, mi hai anticipato, anche io stavo chiudendo, che sono mal di testa, dai, ciao. Ciao, ciao, buonanotte.